Avrebbero trascorso una notte a Parigi, ma non vi sarebbe stato altro tempo per visitarla. D'altronde non era possibile aver tutto, ma Parigi era pur sempre Parigi. Poi, la mattina successiva, tutti di nuovo in treno e quindi giù, percorrendo in tutta la sua lunghezza il rilievo segnato sulla cartina della Francia sino a Basilea, la porta della bellezza, una bellezza di certo paradisiaca, e poi il tanto agognato arrivo. Sarebbero seguiti 5 giorni indimenticabili, poi i suoi pensieri ebbero un'esitazione. Beh, poi supponeva, compiendo uno sforzo, sarebbe iniziato il viaggio di ritorno, e allora. A quel punto, però, pensò che fosse più saggio arrestare il corso dei suoi pensieri. Scusate, vi dispiace se chiudo il finestrino? Chiese la signora alla sua destra. Oh no, rispose Ingeborg, precipitandosi sulla maniglia con la prontezza d'aiutare e a obbedire. Per cui era stata così meticolosamente preparata. La maniglia però sembrava bloccata e Ingeborg prese ad armeggiare, chiedendosi un po' stupita perché l'uomo di fronte se ne stesse a osservare senza muovere un dito. Quando fu riuscita a chiudere, egli sciolse il nodo della sciarpa di lana che aveva avvolta al collo e si slacciò il primo bottone del soprabito. Finalmente, disse in tono di sollievo emettendo un enorme sospiro. La guardò e sorrise. Lei gli restituì il sorriso istantaneamente. Qualsiasi residuo di impaccio che poteva aver avuto addosso nei suoi giorni di adolescente era stato definitivamente rimosso da quando Judith, quella perla di incredibile bellezza, aveva debuttato in società. Avevate freddo? Chiese con lo schietto interesse di un ragazzino. Naturalmente, quando le finestre sono aperte si ha sempre freddo. Ah, disse Ingeborg, che non ci aveva mai pensato prima. Capiva dal suo modo di parlare che era straniero. Il colletto girato all'ingiù e la cravatta bianca sotto la sciarpa aperta mostravano che si trattava di un ministro di culto. Come mi perseguitano, pensò. Anche lì, in una carrozza ferroviaria riservata soltanto ai partecipanti all'escursione, uno di loro era riuscito a infilarsi. Notò che aveva la carnagione grigiastra e i capelli dello stesso colore, fitti e tagliati corti, rassomigliavano alla pelliccia di castoro. Ma le finestre esistono per quello, disse dopo aver riflettuto. No? Le due donne robuste lasciarono Shoolbred in sospeso e si guardarono l'un l'altra. Consideravano sfrontato il comportamento di Ingeborg. Non avrebbe dovuto parlare per prima, per quanto considerassero impossibile non fare amicizia durante un viaggio organizzato, tant'è che la finalità sociale era considerata prioritaria, vi erano pur sempre delle regole. L'altra metà della carrozza invece sì che si stava attenendo alle regole. Le due signore speravano di non essere unite a una compagine il cui tenore morale non fosse improntato alla massima irreprensibilità. L'altra metà aveva osservato le regole con rigido savoir-vivre. Aveva inavvertitamente urtato e calpestato. Si era scusata, le scuse erano state accettate, vi erano poi state le presentazioni fatte in prima persona, seguite da quelle dei compagni di viaggio. Fu così che la strada verso l'offerta dei cioccolatini era stata spianata. No, ripeté Ingeborg in tono interrogativo. La finestra implica un'apertura, disse il gentiluomo tedesco. Naturalmente, disse Ingeborg, vedendo che egli attendeva un cenno di acquiescenza da parte sua. E nella maturità della vita, all'uomo viene istintivo chiuderla. Sì, disse Ingeborg, ma ne consegue che la funzione delle finestre è chiudere le aperture. Sì, ma e non quella di aprire ciò che senza di esse era già aperto. Sì, ma sarebbe illogico, disse il gentiluomo tedesco con pazienza, affermare che la loro funzione sia quella di aprire ciò che senza di esse era già aperto. Rassicurata dal termine logico, che era una bella parola ben conosciuta in sintonia con lo spirito del viaggio, le due donne ripresero Shoolbred allo stesso punto in cui erano state interrotte. Il primo giorno che arrivai in Inghilterra mi comportai in modo logico, chiudendo ogni finestra nella pensione dove stavo. Scoprii poi che i miei modi avevano inasprito l'atmosfera intorno a me. Certo, del tutto comprensibile, annuì Ingeborg interessata. Sì, infatti. E dopo tutto, dato che la mia missione è di diffondere la pace e che la mia visita sarà così breve da rendere sopportabile ogni cosa, ho rinunciato alla logica e al suo posto ho acquistato una sciarpa di lana. Questa. Poi mi sono concesso senza riserva le correnti d'aria. E vi è piaciuto? Mi ha ricordato con piacere che tra poco sarei tornato a casa. È vero che la Prussia orientale presenta da un lato degli svantaggi, ma dall'altro vi sono finestre con serramenti doppi, stufe e la giusta quantità di piume per il letto di ognuno. Prima che le correnti d'aria e le coperte della pensione mi avessero indotto a sopportare piuttosto che a gioire, la mia vacanza mi era sembrata troppo breve, la mia vita e il lavoro che svolga a casa. La vita e il lavoro in seno alla comunità, intendo. Mi erano apparsi inconsistenti. Inconsistenti? Chiese Ingeborg, gli occhi puntati sulla cravatta bianca. Inconsistenti. Gli spifferi e le coperte della pensione invece mi hanno curato. Ora sono felice di ritornare. Mi sono detto che la mia vita là potrà anche sembrare inconsistente, ma perlomeno è calda. Così, aggiunse sorridendo, un uomo impara ad accontentarsi. Impara attraverso correnti d'aria e coperte? Impara attraverso il ritorno a casa. Ah, disse Ingeborg. Allora la provvidenza l'aveva condotta davanti a quel poster solamente affinché imparasse ad accontentarsi? Si chiese se davvero la provvidenza si servisse dei viaggi organizzati per raggiungere le sue finalità educative. Ma, iniziò per poi fermarsi subito, è necessario partire se si vuol far ritorno. Sentenziò il gentiluomo tedesco, di nuovo in tono paziente. Sì, naturalmente, ma l'utilità primaria di una vacanza è renderci desiderosi di concludere al più presto. Oh no, protestò lei, la voce traboccante di entusiasmo vacanziero. Ah, capisco, voi siete all'inizio, esattamente al principio. Allora anche voi alla fine tornerete a casa riconciliata. Lei lo guardò e scosse il capo. Non credo che riconciliata sia esattamente, disse poi interrompendosi e riflettendo. Ma riconciliata a che cosa? Continuò. Anche all'inconsistenza? Le due donne interruppero la conversazione e guardarono Ingeborg, poi si scambiarono un'occhiata. Forse non all'inconsistenza, voi non siete un pastore. Udibilmente le due signore trattennero il respiro. La parlata lenta del gentiluomo tedesco spiccava con chiarezza su quel silenzio improvviso. No, ma non vedo che cosa possa. Io invece lo sono e vi dico che si tratta di una vita inconsistente. Ingeborg sentì come una mano fredda stringerle lo stomaco. Pensò a suo padre, anche egli, se la si metteva in quel modo. Un pastore. Era certa che non avrebbe mai giudicato inconsistente nulla di ciò che faceva. La sua vita era maestosa e importante. Satura fino all'inverosimile di eccelsa utilità, nonché della tendenza di saturare fino all'inverosimile anche le vite di tutti coloro che gli capitavano a tiro. Ma lui, naturalmente, era un principe della Chiesa. Eppure aveva attraversato tutti gli stadi, a partire da quello più umile. Ciononostante, lei dubitava che mai si fosse fermato a contemplare la sua carriera giudicandola inconsistente. Non si trattava forse di una carriera eccelsa? Per quanto nei momenti migliori rendesse esanime e trafelati i parenti di sesso femminile e in quelli peggiori li trattasse alla stregua di bestie da soma, non era forse la più eccelsa di tutte? Seppure agghiacciata, era anche incuriosita. Potrebbe anche non essere malaccio, proseguì il pastore osservando fuori dal finestrino alcuni campi di terra ben coltivati che il treno stava oltrepassando, se non fosse per le domeniche. Lei si sentì agghiacciare di nuovo, ma la rovinano. Lei ora stava zitta e il silenzio delle due signore sembrava aver acquisito la qualità del gelo. E le domeniche hanno la fatale abitudine di ripresentarsi con irritante puntualità. Fece una pausa, come se attendesse da lei un cenno di assenso, e trattandosi di una verità innegabile, Ingeborg dovette darlo. Sì, disse in tono riluttante. Naturalmente, è nella loro natura. Poi un'ondata di ricordi si abbatté su di lei e aggiunse con calore: Oh sì, com'è vero. Il gelo delle signore sembrò materializzarsi, cristallizzarsi. Il fatto è che interrompo nel lavoro di un uomo. Non sono proprio le domeniche il vostro lavoro, chiese perplessa. No, lo fissò, ma un pastore. Un pastore è anche un uomo. Sì, disse Ingeborg, ma di certo avrete osservato che indiscutibilmente egli è anche un uomo. disse Ingeborg, ma è un uomo dotato di un certo intelletto, come del resto sono io. Non può colmare la sua vita con il magro materiale derivante dalla pratica dei precetti della Chiesa luterana. Della Chiesa luterana, disse Ingeborg, o di qualsiasi chiesa. Lei rimase in silenzio. Comprese quanto immensamente il padre avrebbe aburrito quelle parole. Si sentiva un essere malvagio per il solo fatto di rimanere lì ad ascoltare. Ma per quanto strano e orribile fosse rendersene conto, si sentiva anche in un certo qual modo rincuorata. Allora, che cosa può colmarti la vita? Gli chiese con espressione corrucciata, pensando che nella peggiore delle ipotesi quel modo di parlare non era altro che indice di cattivo gusto, e il cattivo gusto le era sempre stato insegnato, era la cosa peggiore. Eppure, com'era piacevole in piccole dosi, dopo le paludi di buon gusto che una persona doveva guadare a fatica nelle grandi città. Il concime, rispose il gentiluomo tedesco. Le signore sussultarono nei loro sedili. Iniziò Ingeborg, poi si fermò. Sono impegnato nello sforzo di insegnare ai contadini della mia parrocchia come trarre il massimo dai loro poveri appezzamenti di terreno. Oh, davvero? Chiese Ingeborg educatamente. Lo faccio dando il buon esempio. Loro non si atterrebbero mai a delle semplici parole. Ho acquistato alcuni acri di terreno e conduco esperimenti davanti ai loro occhi. Il nostro è il suolo peggiore di tutta la Germania, incredibilmente ingrato, come del resto i suoi contadini. Oh, davvero? Disse Ingeborg. Ne risulta una diffusa povertà. Quindi suppongo che ciò che voi predicate sia la pazienza. Pazienza! Quello che io predico è l'uso del concime. Di nuovo, nell'udire l'indecente parola, le donne sussultarono. È il fondamento su cui poggia la grandezza di una nazione, asserì con solennità gli occhi luccicanti di entusiasmo. Non avevo mai considerato la questione da questa prospettiva, rispose Ingeborg, vedendo che lui rimaneva in attesa. Sapete da che cosa dipende uno Stato, in ultima analisi? Dato il gran numero di risposte possibili, lei esitava a replicare. Dalla sua agricoltura, naturalmente, affermò il pastore, con la leggera irritazione di colui che è obbligato a soffermarsi su ciò che è ovvio. Naturalmente, proferì Ingeborg docile, ben addestrata alla quiescenza. E da che cosa dipende l'agricoltura in ultima analisi? Brillantemente Ingeborg azzardò: dal concime? Per la terza volta le signore sobbalzarono e quella a fianco di Ingeborg scostò il vestito. Lui mostrò di apprezzare la sua perspicacia, annuendo lentamente col capo. Una nazione va nutrita e della terra arida, incolta, non nutre nessuno. No, certo, convenne Ingeborg. Ne consegue che esso è l'elemento principale in tutti i campi del progresso e dato che quest'ultima è paragonabile a una pianta, attecchisce e prospera solo se ha nutrimento a sufficienza. Le signore iniziarono a sventagliarsi con colpi sempre più possenti, nervosi, una con il Daily Mirror e l'altra con Answers. Certo, disse Ingeborg. Prima, disse il gentiluomo tedesco, è necessario riempirsi lo stomaco. La signora seduta accanto a Ingeborg, passandole davanti, compì un improvviso affondo in direzione del fermo. Scusate, vi dispiacerebbe tirar giù quel finestrino? Chiese in una sorta di raffica. Il gentiluomo tedesco, interrotto nella sua esposizione, utilizzò l'intervallo di tempo necessario a Ingeborg per aprire il finestrino, per abbottonarsi di nuovo il soprabito con cura e pazienza e risistemarsi la sciarpa di lana. Una volta terminati quei compiti, si animò immediatamente di nuovo entusiasmo, come se questo affluisse premendo un tasto. Le infinite combinazioni possibili, esclamò, le infinite varietà, potassio, cainite, nitrato di ammonio, superfosfati, declamò, salmodiando quei termini come fossero versi di un cantico. Quando mi chiudo la porta alle spalle nel piccolo laboratorio che mi sono costruito, chiudo assieme a me tutta la vita, la scienza, ogni possibilità. Analizzo, sintetizzo, separo, riduco, miscelo, assurgo alle più alte vette. Sondo le profondità, dimentico il mondo all'esterno. A dire il vero, dimentico tutto, eccetto la mia ricerca. E ogni volta, nel momento più intenso, culminante, qualcuno bussa per dirmi che è di nuovo domenica e che io Devo uscire a predicare. La guardò con aria indignata, chiedendo solidarietà. Predicare? Ripeté. Ma allora perché siete diventato pastore? Chiese, con il coraggio della curiosità. È stato mio padre a volerlo. E allora perché continuate a esserlo? Perché un uomo deve pur guadagnarsi da vivere. Però non si dovrebbe fare delle scelte, disse Ingeborg arrossendo un poco, dato che quando si trattava di esprimere un'opinione era stata pazientemente addestrata alla timidezza, benché il vescovo definisse quell'azione comportarsi da vera signora. Che comportino il sacrificio delle proprie convinzioni. Pur tuttavia, disse il pastore, le si fanno. Già, convenne Ingeborg obbligata ad ammetterlo. Persino a Rochester non mancavano casi analoghi. Certo, disse Ingeborg annuendo, e incapace di non essere onesta almeno quanto le era stato il pastore, disse, anche alle donne tocca compiere delle scelte. Naturalmente, disse il pastore. Lo fissò per un istante e poi dichiarò impulsivamente, chinandosi appena in avanti verso di lui vicino al fermo del finestrino. La donna qui presente le ha fatte e le sta facendo in questo esatto istante. Le due signore si scambiarono uno sguardo, sventolando i giornali più forti che mai. Quale donna qui presente? Domandò il pastore, la cui padronanza dell'inglese, benché elevata, non era ancora agile. Io? Disse Ingeborg puntando il dito verso di sé. In questo stesso istante vivo e fuggo via su questo treno, correndo incontro a questa vacanza, pagando totalmente il prezzo delle mie convinzioni. Capitolo 3. Dopo tali esternazioni non ci si poteva più aspettare che la comitiva guardasse con favore né a Ingeborg né al gentiluomo tedesco. Che cos'era mai così indecente parlare di fuga? Inoltre, a Dover accadde qualcosa che inasprì ulteriormente il gelo della comitiva. Il treno aveva rallentato la corsa e gli escursionisti affaccendati e oscillanti sotto il peso di bagagli e ombrelli pronti alla mano erano già pronti per l'arrivo. Tutti, eccetto Ingeborg e il pastore. Il treno si era già arrestato e ancora i due vicino alla porta non accennavano a muoversi. Erano così immersi nei loro discorsi che continuavano a starsene seduti, bloccando barbaramente la fila congestionata che si era formata all'interno della carrozza. Fiumane di passeggeri, che grazie alle regole di buona creanza osservate nelle altre carrozze avevano avuto libero passaggio, scorrevano fuori dal finestrino ben determinati ad accaparrarsi i posti migliori sul traghetto. I passeggeri che formavano la fila in attesa si accalcavano, attenendosi al rispetto delle buone maniere fino all'ultimo istante possibile, preoccupati, con l'eccezione delle due donne trascinate a viva forza sull'orlo della spontaneità da ciò che erano state obbligate ad ascoltare, di non dover mostrare i sentimenti che le animavano. Dato che i sentimenti verso gli altri avevano scoperto con sorpresa i partecipanti dei viaggi organizzati, rispecchiavano sempre in qualche modo qualcosa di sgradevole. I secondi scorrevano, ma la calca, sempre più assiepata, non veniva ancora liberata. Poi il pastore, lasciando indugiare lo sguardo con tutta calma sulle persone che premevano presso la porta, persone sfigurate dalla fretta e dalla brama di conquistare le postazioni più ambite sul traghetto, disse in tono di pacata ma acuta lagnanza, come se vedesse in quella calcarsi solo un'occasione per burlarsi degli altri a voce alta. «Ma perché il buon Dio ha creato così tante brutte donne?» Fu solo dopo aver pronunciato queste parole che l'enorme signore in testa alla fila abbandonò ogni riserbo e si lasciò andare in modo incontrollato. «Mi permettete di passare?» gridò. E senza concedergli un ulteriore istante di clemenza, si guadagnò un varco tra le ginocchia di lui e quelle di Ingeborg, seguita dal passaggio torrenziale dei rimanenti passeggeri ora in condizione di fluire liberamente. «Inaudito!» «Tenerci tutti fermi mentre lui se ne sta lì a pronunciare frasi blasfeme», sentenziò ansimando in direzione dell'amica sulla banchina. Fu così che durante il resto del tempo in cui la comitiva rimase unita, essa, capeggiata dalle due donne, si ritirò in una gelida alterigia e Ingeborg e il pastore, banditi per tutto il giorno da quel consesso esclusivo, non poterono evitare di stringere amicizia. Parlarono e passeggiarono, si arrampicarono e visitarono luoghi, parteciparono a tutto ciò che l'organizzazione aveva previsto, senza però lasciarsi coinvolgere fino in fondo e sempre come se fossero una retroguardia. Similmente prudenti, essendo entrambi di mezzi modesti, evitavano tutte quelle spese extra che stavano in agguato a ogni angolo della giornata. La loro frugalità era talmente evidente che scioccò gli altri escursionisti ancora di più delle cose orribili che avevano detto. Che cattivo gusto! Dichiarò la comitiva il terzo giorno, quando i due, dopo essersi tirati addosso ulteriori critiche a causa di una negativa predisposizione nei confronti dei tè pomeridiani e dell'acquisto di cartoline, aggravarono la loro situazione decidendo di non unirsi al gruppo nella passeggiata in calesse sul lungo lago, il cui costo non era compreso nella quota dell'escursione. Persino Mr. Heshaug, la loro guida, incominciò a considerarli indesiderabili. In particolar modo non sapeva come inquadrare Ingeborg, pur percependo chiaramente che non era affatto il tipo da viaggio organizzato. E il gentiluomo tedesco, benché in apparenza un tipo più che affabile, diventava esattamente l'opposto ogni qualvolta decideva di aprire la bocca. L'espressione che la signora più voluminosa aveva usato quando era piombata su Mr. Heshaug a Dover per sporgere reclamo era stato sboccato, e aggiungendo che da sempre si affidava alla stessa organizzazione per i suoi viaggi, affermò di sentirsi in pieno diritto di richiedere che la bocca di quell'uomo venisse ripulita. «Non sono uno spazzolino da denti, Mrs. Bone», replicò il confuso Mr. Heshaw in quel momento proteso nello sforzo di procurarsi aria e luce all'interno del gregge che gli si era assiepato attorno. «Allora scriverò direttamente al responsabile», minacciò l'indignata Mrs. Bowne. Mr. Heshaw, spaventato da quell'intimidazione, dopo essersi divincolato e liberato dalla stretta del gregge, la seguì giù dal marciapiede, chiedendo con incredibile mancanza di tatto, poiché chi formulava una domanda del genere non poteva essere altro che un individuo privo di qualsiasi finezza, se la conversazione del gentiluomo tedesco fosse stata oscena. «Non posso sbarazzarmi di lui se non è stata oscena, capite?» disse Mr. Heshaug. «Lo è stata?» Mrs. Bowen, esasperata e frustrata, si sentì obbligata a salvaguardia della dignità e condizione di donna virtuosa a rispondere che fortunatamente non conosceva il significato di quella parola. Ma il pastore, il cui nome era Dremmel, Robert Dremmel, come aveva detto a Ingeborg presentandosi, affrontava con grande distacco ogni cosa che accadeva. Se veniva chiuso fuori, non se ne accorgeva. Se qualcuno gli voltava le spalle, non prestava quel gesto la benché minima attenzione. Nulla che la comitiva potesse fare al fine di ostracizzarlo riusciva a penetrarne la percezione. Avendo deciso che le donne del gruppo non rivestivano alcuna attrattiva e che gli uomini non stimolavano in lui alcun interesse, se ne dimenticò. Con la sua abile semplicità si concentrò inizialmente solo sulla Svizzera, che era ciò per cui aveva sborsato i suoi quattrini, ma poi trovò piacevole anche il fatto che alla giovane donna vestita di grigio venisse naturale condividere quella sua concentrazione. Solamente per poche ore all'inizio aveva trovato poco femminile la sua spontaneità, la sua pronta offerta d'amicizia. Dava un po' troppo l'impressione di essere una sorta di ragazzo. Non sembrava provare alcun imbarazzo, un attributo che sua madre gli aveva insegnato a confondere con il pudore e apparentemente nessun desiderio di compiacere l'altro sesso. Verso la fine di quel lungo viaggio, per esempio, si era addormentata di fronte a lui, lasciando che la bocca si schiudesse un po' durante il sonno, senza minimamente preoccuparsi che lui potesse vederla. A Herr Dremmel, che andava orgoglioso di un interesse senza pregiudizi, sebbene intermittente verso il fascino femminile, spiacquero queste manchevolezze, ma solo all'inizio, per poche ore. Già alla fine del primo giorno, a Lucerna, trovò piacevole la sua compagnia e non si curò ulteriormente del suo grado di femminilità. Provava piacere nel parlarle, scoprì di poter conversare con lei come mai gli era riuscito di fare con le poche giovani donne della Prussia orientale che aveva conosciuto, e questo nonostante l'intensità del loro desiderio di compiacerlo. Cercò di comprenderne il motivo e giunse alla conclusione che era così perché lei era interessata. Qualsiasi fosse il discorso che lui stava affrontando, eccola che interveniva, o così sembrava, per andargli incontro. Lo ascoltava dimostrando un'intelligenza e una docilità, a quel tempo era ancora ignaro dell'addestramento del vescovo, che raramente lui aveva trovato abbinate. Riteneva che le persone intelligenti tendessero con troppa facilità ad argomentare e a controbattere. Quella giovane donna, invece, Era intelligente, ma priva di quel desiderio di disputa, una mescolanza alquanto rassicurante, oltre ad avere il buon senso di inchinarsi con grazia davanti a un'opinione inconfutabile. E se i suoi inchini arrivavano in ritardo, come spesso accadeva, ritardo imputabile all'esternazione di un ma, lui doveva solo ripetere di nuovo con pazienza per ottenere un'ammirevole e gioiosa remissione. Naturalmente, egli era all'oscuro del severo addestramento di lei alla remissione. Prima della fine del secondo giorno, le aveva detto più cose sulla sua vita, sulla sua casa, sul suo lavoro e sulle sue ambizioni di quante ne avesse mai confidate ad altri. Anche lei gli aveva raccontato della sua vita, della sua casa, del suo lavoro, con la differenza che lui non l'aveva trovato altrettanto interessante. Non aveva ambizioni, spiegò, al che lui rimarcò trattarsi di una qualità positiva in una donna. E riguardo al vescovo, Ingeborg lo menzionò talmente di sfuggita che il pastore fu a malapena consapevole della sua esistenza. E il terzo giorno fu in grado di notare qualcosa che curiosamente gli era sfuggito all'inizio, cioè la sua bellezza. Non bella in quella maniera abbondante, tipica della Prussia orientale, con curve generose e tutto quello che lui ora iniziava a credere fosse superfluo, ma una bellezza delicata e misurata. Non pensava più che un po' di peso l'avrebbe migliorata. E osservando i vestiti, dopo una diligente comparazione con quelli delle altre signore, si risolse di attribuir loro l'aggettivo elegante. Entro il quarto giorno ammise a se stesso che molto probabilmente stava per innamorarsi. Prima della fine del quinto sapeva senza ombra di dubbio che la previsione si era avverata. Per lui ne era prova inconfutabile il fatto che l'immagine della Svizzera quel giorno si era dissolta fino a non divenire altro che il fondo indistinto contro cui si stagliava la figura di lei. Persino il righi, osservò colpito, non destava in lui alcun interesse. Ne scalò le pendici, lui che non aveva mai scalato nulla, solo perché lei glielo chiese. Saliva faticosamente, col fiato grosso, incurante del suo corpo accaldato che andava sciogliendosi dentro la cappa degli abiti neri, beandosi della visione di lei che lo precedeva e osservandola entrare e uscire dai fasci di fulgida luce solare mentre si muoveva rapida fra i tronchi dei pini. Quando raggiunsero la sommità e Ingeborg sostò immobile all'estremità dell'altipiano, invece di fermarsi a mirare il panorama, egli prese posto sul sedile a lei più vicino e si lasciò assorbire dal modo in cui la luce infuocata del pomeriggio le rimaneva intrappolata nei capelli, conferendo loro il colore della fiamma. Ecco finalmente qualcosa davvero interessante. Mai, per quanto potesse ricordare, aveva preferito osservare capigliature piuttosto che paesaggi. Si disse che quella innocua impresa vacanziera stava producendo risultati davvero singolari.